Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, come già anticipato, oggi andremo a verificare se esiste un piatto che rappresenta la cucina italiana nel suo complesso. Bene, una situazione, diciamo, un'argomentazione abbastanza controversa e sicuramente che può creare delle polemiche. Bene, dico subito come la penso io ritengo che non esista una cucina nazionale italiana, ma esistono le cucine italiane, esistono tante, sono diverse e questa è la forza della cucina italiana nel suo complesso. Però, detto questo, io plaudo all'iniziativa organizzata dal gruppo virtuale dei cuochi italiani, di cui il presidente Mario Caramella, che ora abbiamo con noi, per questa giornata che è del sabato scorso, dove hanno lanciato il risotto alla milanese come piatto rappresentativo. Perché sono d'accordo sul risotto alla milanese? Perché sicuramente il risotto alla milanese, a differenza di molti altri piatti, implica anche abilità, non è la pasta. La pasta è molto più semplice. Lì invece ci sono alcune tecniche del risotto sicuramente che devono avere alle spalle una certa così preparazione e una certa tecnica di base. Non solo, ma anche perché rappresenta un prodotto italiano al 100%, che è il riso, il carnaroli, il vialone nano. E quindi sicuramente può essere un piatto che rappresenta la cucina italiana. Allora io do il buongiorno a Mario Caramella, che in questo momento è in Australia. Buongiorno Caramella. Buongiorno a voi, qui è sera, quindi va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Dov'è esattamente lei? Sono nel Queensland. Quindi sera, però la temperatura è migliore che la nostra in questo momento, sicuramente. Ma sicuramente, qui ci sono 32 gradi, piove ma fa caldo, si sta bene insomma. Caramella, perché avete deciso di fare questa giornata? Sicuramente la giornata è importante e per carità, anzi veramente come ho detto un plauso a tutti voi. Perché avete scelto il risotto alla milanese? Abbiamo scelto il risotto alla milanese per lo stesso motivo per cui l'anno scorso abbiamo scelto la carbonara. Io sono all'estero da 20 anni, come me e tanti altri miei colleghi, e conosciamo bene quali sono i piatti più bistrattati, i piatti più falsificati all'estero, più fatti male, insomma, sia dagli italiani anche che soprattutto dagli italiani. Non italiani, ma non soprattutto dagli italiani, però a volte diciamo che qualcuno si lascia un po' andare, visto per esempio se ha una clientela non italiana o non di un certo livello, che a cui va bene tutto, insomma, si lascia un po' anche andare, per cui diventa una cucina italiana un po' così malandata. Per cui noi abbiamo scelto di celebrare la giornata delle cucine italiane, come dicevi tu prima, non si può celebrare una cucina italiana, ci sono le cucine italiane, le cucine regionali, e per celebrare queste cose prendiamo sempre un piatto che proponiamo e specifichiamo la ricetta autentica, sperando di eliminare questi dubbi e queste incertezze che ci sono nel farli. Bene, rimani con noi, ripeto, numero verde 800 24 00 24, e sentiamo, abbiamo un radioascoltatore, Terenzio da Villa d'Agri. Buongiorno Terenzio. Buongiorno, sono Terenzio Bove, presidente del consorzio di tutela dei fagioli Sarconi. Ascoltavo la radio e io candiderei come piatto più nazionale d'Italia la pasta e fagioli. Perché dunque ora è benissimo, si è presentato e Bove è un un posto appassionato di fagioli di tutta Italia, non solo di Sarconi ma di tutti i fagioli buoni che abbiamo, questo straordinario patrimonio di biodiversità italiana. E proprio da questa considerazione io ritengo che la pasta e fagioli sia il piatto simbolo della cucina italiana, perché i fagioli, i tipi di fagioli usati sono diversi ovviamente, ma in tutta Italia, dal Piemonte passando per il Veneto e la Toscana, scendere giù fino alla Sicilia, troviamo da qualsiasi parte, in qualsiasi posto si mangia dell'ottima pasta e fagioli. Ovviamente i fagioli sono diversi, come pure i tipi di pasta e i condimenti, e proprio per questo è un prodotto, è un piatto che rappresenta poi il piatto più nazionale d'Italia. Bene, grazie Terenzio. Sentiamo Caramella cosa ne pensa. Secondo me è difficile stabilire quale sia il piatto nazionale italiano. Sì, chiaramente c'è uno stile italiano ed è questo su cosa noi dobbiamo concentrarci all'estero, lo stile di cucina italiano, cioè uno stile che non dobbiamo inquinare, che dobbiamo difendere, che dobbiamo portare avanti. Questo stile chiaramente è possibile farlo solo avendo gli ingredienti autentici, per cui anche la pasta e fagioli fa chiaramente parte di questo patrimonio di piatti autentici italiani che rappresentano l'Italia, ma dire che un piatto singolo rappresenti tutta la cucina italiana credo che sia un po' difficile da stabilire. Caramella, le posso dire che sono già arrivati 20 sms e ognuno di questi radioascoltatori indica un piatto come piatto nazionale: spaghetti, pomodoro e basilico, la pizza. Beh, sentiamo Gaetano dalla provincia di Messina. Buongiorno Gaetano. Pronto? Sì, buongiorno Gaetano, ci dica. Senta, io credo che il piatto più rappresentativo sia la pasta col pomodoro, per una ragione. La cucina italiana viene conosciuta all'estero soprattutto tramite gli emigranti nel XIX secolo e nel XX secolo. Gli emigranti prevalentemente provenivano dal sud dell'Italia, sì, c'erano anche veneti, ma comunque la stragrande maggioranza erano meridionali. E i meridionali si sono portati da presso la pasta col pomodoro. Con questo nulla toglie che non sia il piatto migliore dal punto di vista gastronomico, ma secondo me è il più diffuso, è il più rappresentativo della cucina italiana. Bene, grazie Gaetano, grazie di questo suo intervento. Il gastronauta. Eccoci di nuovo tra una pasta e fagioli, uno spaghetto al pomodoro, un minestrone, uno spaghetti aglio, olio e peperoncino. Insomma, tutti dicono la loro, sono contentissimo di questo. Vuol dire che questo orgoglio italiano, così celebrato dal gruppo virtuale dei cuochi italiani, esiste veramente. Sentiamo Roberto da Roma. Buongiorno Roberto da Roma. Sì, buongiorno. Mi dica. Io penso che il piatto italiano sia il minestrone, che è uno dei piatti poveri, insomma. Bene. Che piace molto agli italiani, anche che condivido il signore che ha detto pasta e fagioli, che anche pasta e fagioli è uno dei piatti italiani, insomma, più. Bene, grazie, grazie del suo voto, Roberto da Roma, perché ormai passiamo alla votazione. Sentiamo Vincenzo da Milano. Buongiorno Vincenzo. Salve, buongiorno. Senta, io rischio di ripetermi, ma fondamentalmente sono anch'io dell'idea che secondo me la pasta più rappresentativa è la pasta e fagioli, anche perché affonda le radici nella cultura contadina italiana. Poi. No, guardi, secondo me se c'è qualcuno che vuole votare ancora per la pasta e il pomodoro lo faccia pure, perché così capiamo. No, lei la pasta e fagioli, dicevo, se c'è qualcun altro che vuole ritornare sulla pasta e pomodoro va benissimo, accettiamo il voto, non è che lo annulliamo. Bene, Caramella, ha sentito un po' qual è l'aria che spira? Sì, chiaramente hanno tutti ragione. E nessuno torna. Io ripeto che come gruppo virtuale con Italia sosteniamo che non ci sia un piatto nazionale superiore ad un altro e tutti abbiano la stessa popolarità, la stessa importanza nel trasmettere la nostra cultura. Chiaramente c'è uno stile italiano ed è questo per cui noi cerchiamo di combattere, lo stile di cucina italiana, questo che bisogna portare avanti, bisogna promuovere, bisogna far capire a tutti per mezzo dei cuochi italiani all'estero e specialmente i ristoranti all'estero devono impegnarsi a mantenere uno stile italiano e non farsi intimorire da altre etnie, da altre certo. Cucine che all'inizio potrebbero sembrare esotiche ma che poi vanno ad inquinare una cosa che è ben stabilita e che è ben fatta e che non ha bisogno di nessun miglioramento. Una carbonara o un risotto alla milanese sicuramente può solo essere distrutto con l'aggiunta di un ingrediente. Caramella, io la ringrazio e niente, il prossimo anno ci risentiremo con il nuovo piatto sicuramente. Voglio anche ricordare ai nostri radioascoltatori che nella seconda parte della trasmissione abbiamo due, diciamo, chef bravissimi nel risotto, i quali ci insegneranno alcuni trucchi, appunto, come prepararlo. Quindi attendete, perché così avrete un po' anche delle sorprese. Ricordo, numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Buongiorno a Guido Barenson, direttore di Gambero Channel. Buongiorno Guido. Buongiorno, direttore di RaiSat Gambero Rosso Channel. Ah, perfetto, benissimo. Vorrei iscrivermi subito al partito della pasta al filetto di pomodoro. Sottolineo filetto di pomodoro, essendo io di derivazione partenopea. E sono un po' perplesso sui fagioli, che non sono un patrimonio esclusivo del nostro paese, ma per quanto fantastici quelli che vengono sulle parti nostre, dobbiamo condividere con paesi importantissimi. Pensate solamente al ruolo dei fagioli nella cucina brasiliana, per esempio. Penso che comunque, al di là dei singoli piatti bandiera, e parlo a te Paolini, che sei un grande esperto, un grande uomo di comunicazione, penso che la cosa importante dell'operazione del gruppo dei cuochi virtuali sia quella di mostrare la bandiera della cucina, della gastronomia alta e bassa del nostro paese, che viene messa in difficoltà in tanti posti e che va appunto protetta. Rimani con noi, sentiamo Augusto dalla provincia di Viterbo. Buongiorno Augusto. Buongiorno, buongiorno. Noi la specialità è tutta una specialità, cucina contadina, perché io sono contadino e la fortuna di avere una moglie che ha preso lezioni da mia madre, perché siamo stati 9 anni con mia madre, e allora la stradata. L'acqua cotta che si fa a Vignanello, perché poi la fanno altre parti, ognuno ha la sua caratteristica. La nostra caratteristica è l'acqua cotta, tutto il pane avanzato, deve essere pane raffermo, sciapo, perché nel viterbese si mangia il pane sciapo. Allora si fa un soffritto di acqua, olio, pomodoro, aglio e quello che è, e poi si lunga mano a mano con l'acqua. Si fa insaporire bene, poi si taglia sto pane raffermo e si mette sopra. Ci vuole però la menduccia è il numero uno, e un uovo schiacciato sopra. E buon appetito. È una cosa spettacolare. Augusto, piatti che non conoscono. Augusto, grazie della ricetta, l'aggiungeremo le altre. Sentiamo Andrea da Bologna, buongiorno Andrea. Buongiorno Davide, grandioso come trasmissione. Io sono di Bologna, chiaramente avrei già delle difficoltà per scegliere un piatto dei nostri emiliani di Bologna, tortellini, lasagne, adesso ero a Ferrara, salamina da sugo, eccetera. Io farei un piatto unico che ce l'ho, guardi, io sono iscritto anche al Sacro Ordine del Suino, tanto per dire, su Facebook. Complimenti. No, vabbè, perché va bene, abbiamo questi animali nobili, ma in tutta Italia siamo eccezionali. Il famoso film Americano Roma di Alberto Sordi, quando è indeciso che sta mangiando quelle cose. Lo spago. Schifette. E allora il maccarone, che sono un po' gli spaghetti, il piatto che gli porta sua madre, maccarone Mattemagno, ecco, quello per me racchiude tutta la sintesi dell'Italia, che è... Bene, bene, viva i tortellini e le lasagne, Andrea, viva, continui a mangiarli e continui a far parte del gruppo della Confraternita del Suino. Grazie. Giancarlo da Treviso, un radioascoltatore. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno a voi. Credo che non sia sfuggita una notizia nei giorni scorsi, che il nuovo presidente degli Stati Uniti, Obama, più volte durante delle cene per festeggiare la sua elezione ha usato dei piatti, dei prodotti italiani, il baccalà alla vicentina, i bigoli in salsa, i risi e bisi. Quindi quando abbiamo un testimonial come questo, credo che la strada sia aperta. Volevo fare una considerazione, che è questa: risotto alla milanese giustamente è stato scelto come testimonial della cucina italiana nel mondo, ma ha una caratteristica, che è un prodotto riconoscibile, quindi accettato in tutto l'ambito della cucina italiana, anche se ha una identificazione territoriale, proprio perché la cucina italiana è una federazione di cucine, di tradizioni, di prodotti del territorio, a volte anche molto diversi, ma che hanno dei piatti in cui comunque noi ci possiamo riconoscere. L'anno scorso hanno fatto gli spaghetti alla carbonara, quest'anno risotto. Sull'anno prossimo lancio anch'io una mia candidatura, perché credo che i piatti che rientrano in una squadra ideale, un dream team, possono essere tanti, a patto che abbiano però un po' queste caratteristiche, caratteristiche, cioè una certa riconoscibilità e quindi una identificazione comune. Beh, sì, infatti Caramella ha parlato di stile italiano. Sì, io mi permetto anche di... ho molto apprezzato l'intervento di Caramella e il suo impegno. Volevo aggiungere una piccola postilla. Secondo me però alcuni piatti, cioè questi piatti, devono avere anche la caratteristica della riproducibilità. Cioè se in alcune case di famiglia, che so, degli Stati Uniti, della Germania, vogliono fare questi piatti, devono avere la possibilità tecnica di poterli fare. Quindi apprezzo che nella seconda parte, ho sentito, ci sono degli chef che faranno queste cose. Quindi io per l'anno prossimo lancio anch'io la candidatura alla nomination della pasta e fagioli, che è già un piatto conosciuto e credo che sia giusto ricordare il grosso lavoro che ha fatto Arrigo Cipriani. Però, dottor Paolini, se mi permette, io volevo concludere con una piccola riflessione, che è questa. L'Italia è uno dei pochissimi paesi che si può cibare di una cucina etnica restando entro i confini nazionali, perché abbiamo talmente tante diversità, talmente tante chicche sparse per la penisola, che sarebbe bello che una buona ribollita o una pasta con le sarde, se fatte bene, si potessero gustare anche al di fuori dei loro campanili. Bene, grazie, le tolgo il microfono perché ho tantissime chiamate. Grazie, la ringrazio, Giancarlo da Treviso, fine dicitore, mi sembra di capire. Sentiamo Maila da Prato. Buongiorno Maila. Sì, buongiorno e complimenti. Grazie. Io da fiorentina potrei dire la bistecca alla fiorentina, come hanno detto appunto di sotto la milanese, però sarebbe troppo regionale. Allora io penso che veramente un piatto nazionale possa essere la pizza. Anche perché è apprezzata in tutto il mondo, direi. Sì, però guardi, ce l'hanno talmente sputtanata, e non mi vergogno a dire questa parola, in giro per il mondo, che credo sia duro recuperare il valore di questo straordinario prodotto. Veramente comunque è nostro. È nostro, però quello. Guardi, secondo me la pizza, come tanti altri prodotti, ormai è apolide, come lo sarà il couscous, come il kebab, come tanti piatti nazionali che ormai hanno avuto tante moltiplicazioni, diciamo, e brutte fotocopie, che ormai è un patrimonio all'estero perso. Cerchiamo di mantenerlo in Italia, sarebbe già tanto. Grazie, sì. Maila. Grazie. Barenson. Hai sentito un po' le varie... Ho sentito, mi piace molto l'elemento, la riflessione che facevano, mi sembra, da Trento, a proposito della ricchezza, la nostra ricchezza etnica. Non è un caso che in Italia non siano mai riusciti ad entrare, ad aver successo, dei ristoranti etnici stranieri, no? Se tu vuoi mangiare un grande cinese devi andare a Londra o devi andare a Parigi, piuttosto che un giapponese o un indiano, quindi godiamoci con tutta la gioia che ci possono dare le singole pietanze, le singole materie prime regionali, e magari sforziamoci di fare un viaggio, anziché pretendere di mangiarci le sarde a Treviso, andiamo in Sicilia a provarle. Questo poi, come tu sai bene, è anche una forma di turismo meraviglioso che ci porta da una parte all'altra del paese. Bene, grazie Barenson, grazie, a presto. Ciao Guido, sentiamo Alberto dalla provincia di Oristano. Buongiorno Alberto. Buongiorno, parlo da Bosa, parlo da Bosa Marina. Stupendo posto, stupendo posto. C'è stato? Tante volte. Ma ci venga, la città più caratteristica della Sardegna, la più bella, guardi. Bene, viva la Malvasia. Che bravo! Noi siamo Malvasia di Bosa. Sì. Quello deve fare molta propaganda, molta pubblicità, perché è la migliore Malvasia che abbiamo in Italia. Certo. Ho sentito un toscano che fa la collezione dei vini e ha detto che in un centro della Sardegna chiamata Bosa c'è la migliore Malvasia in Italia. Bene. Che proviene dalla Grecia. D'accordo, Alberto, allora qual è il piatto che lei lancia? Pomodori secchi, sì, tritati bene con aglio, poi soffritti in padella, e poi quando si cuoce la pasta si butta nella padella, si butta e si dà una girata così, si dà, per esempio, soffritti poco a poco e poi messi a tavola. Pomodori secchi. Bene, grazie Alberto dalla bellissima Bosa, presto! Il gastronauta. Pizza, pasta al pomodoro, tagliatelle al ragù, fritto alla piemontese, la panissa, insomma, arriva un po' di tutto sul piatto rappresentativo della cucina italiana. Ma io ora ho in linea due giganti della cucina, uno nordista e uno sudista, ma prima di loro voglio sentire Antonio da Napoli. Buongiorno Antonio, un radioascoltatore. Mi dica. Senta, io volevo suggerire un piatto povero, semplice, però io quando lo mangio mi lecco le labbra. E sono le linguine alla puttanesca. Bene. Fatte con pomodoro, capperi e olive. Benissimo. Ovviamente. Caro Antonio, è un altro piatto. Pasta di Gragnano. Pasta di Gragnano, lei ha detto, guardi che questa parola ora la trasferiamo perché ho detto che abbiamo con noi, stia ad ascoltare, perché abbiamo Gualtiero Marchesi, quindi Nord Milano, tra l'altro uno dei re del risotto, premiato qualche giorno fa addirittura a Madrid come uno degli 11 chef a livello mondiale che sono stati maestri delle cucine dei loro paesi. E abbiamo Gennaro Esposito di Vico Equense, di la torre del Saracino, appunto sudista dall'altra parte. E allora, io, visto che ha parlato della pasta di Gragnano, prima di tutto passo la parola, e Gualtiero ascolterà, poi interverrà anche lui, Gennaro Esposito, per chiedergli: Gennaro, c'è un piatto che secondo te rappresenta la cucina italiana? Buongiorno a tutti. Senz'altro c'è, secondo me, ed è anche un po' una provocazione la mia, secondo me il piatto di spaghetti al pomodoro con la foglia di basilico bello fumante, per me è l'icona della cucina italiana nel bene e nel male, perché purtroppo questo può essere in questo momento, soprattutto in questo momento storico della cucina italiana, un po' riduttivo, nel senso che c'è un grande entusiasmo dei cuochi italiani intorno alla cucina italiana, c'è grandissimo interesse, e quindi diciamo un piatto come quello, che è semplice, fantastico, buonissimo, molto difficile, perché meno ingredienti abbiamo a volte in un piatto e più è difficile avere il perfetto equilibrio e la perfetta, come dire, il perfetto sapore, e quindi in questo momento, dicevo, può essere un po' riduttivo, però per me rimane, come dire, il grande riferimento, il grande banco di prova di uno chef, perché ha insieme tutti i concetti della cucina italiana, cioè la scelta rigorosa dei prodotti, la manualità, la gestualità, la cottura della pasta, la massima attenzione dei passaggi, come dire, in cucina, e dopodiché il risultato, ti arriva il piatto con cui tu interagisci immediatamente, che tu riconosci immediatamente e che ti può lasciare così impassibile, oppure ti può stupire, ti può lasciare un timbro nella memoria incredibile di sapore, di gusto, di leggerezza. Guarda, è arrivato ora un SMS che dice: pasta e pomodoro e basilico rappresentano tra l'altro anche i colori della bandiera italiana. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, ma ora passo la parola a Gualtiero Marchesi. Buongiorno Gualtiero. Ciao Davide, intanto saluto anche l'altro amico, che mi piace che abbia detto questa cosa degli spaghetti al pomodoro, perché alle volte si rischia di essere banali quando si è semplici, e la difficoltà è proprio lì. Una volta mi chiesero qualcosa sulla cucina milanese e disse che la cucina milanese è rappresentata nei grandi testi della cucina internazionale, diciamo, con il risotto, la costoletta alla milanese, l'osso buco in gremolata. Forse è la cucina italiana che è più rappresentata, però dico, gli unici che ci battono sono i napoletani con gli spaghetti al pomodoro, dunque vedi che siamo d'accordo. Quindi tu dici che questi qui sono i piatti che possono rappresentare, diciamo, idealmente la cucina italiana, perché ormai, come tutti lo mettono in luce, è talmente variegata che è difficile che ci sia qualcuno, qualcosa che lo esprime. Io però... poi non dimentichiamo la pizza, eh. Certo, ma la pizza, però, io ho detto prima, è stata sputtanata all'estero. Sì, sputtanata, perché purtroppo... però rimane un simbolo comunque, dai. È un simbolo. Ma volevo chiederti, sì, il risotto alla milanese, che è stato scelto dai cuochi virtuali per rappresentare l'orgoglio italiano, sì, io, cioè, è uno dei tanti risotti, perché diciamo che di risotti, sì, c'è una varietà in questo paese strepitosa. Sì, sì, veramente, sì. Ma è qualcosa di più difficoltoso di un piatto di spaghetti, poi lo chiedo, a pomodoro e basilico, oppure no? Dal punto di vista tecnico. Se partiamo dal punto di vista dell'esecuzione, tutte le cose sono difficili, perché noi abbiamo bisogno di bravi esecutori o di interpreti, come vogliamo. Però il risotto richiede una cura continua. Intanto si deve fare un fondo, poi bisogna cuocere il risotto con il brodo, con lo zafferano, bisogna mantecarlo alla fine, e poi alla fine deve esserci un equilibrio che purtroppo nel risotto è sempre stato dominato dai formaggi, no? Io ho fatto l'operazione di togliere il formaggio e così i risotti ognuno ha la toglierlo, ne metto un cucchiaio, diciamo, al termine, proprio diciamo quasi per arrotondare il gusto. Ma poi bisognerebbe partire, se si fanno dei risotti di pesce, allora cambia tutto, insomma. Però io ricordo quando ero ragazzino che si parlava già del risotto di mare, che aveva bisogno di un altro brodo, di altro tipo di cottura. Ecco, bisognerebbe fare una differenza. Il risotto alla milanese così è diventato famoso, come dicevo prima, per tanti piatti milanesi che forse sono andati più facilmente nelle cucine dei grandi alberghi, nelle cucine perciò internazionali. Bene, rimanete con noi tutti e due, perché abbiamo alcuni radioascoltatori. Sentiamo Giorgio da Livorno. Buongiorno Giorgio. Ciao Davide, sono Giorgio Dracopoulos, il gastronomo del Corriere del Vino. E, tanti saluti a tutti, a Gennaro, a Gualtiero. E volevo dire questo, secondo me se si parla per un mercato interno è un discorso, se si parla per l'immagine dell'Italia, della gastronomia italiana all'estero, anche la lasagna la vedo piazzata bene, perché... E è un'immagine che c'è tutta la tradizione italiana dentro, in più soprattutto c'è il collegamento pasta e carne che all'estero va molto, insomma, nel senso c'è molta richiesta, ti guarda tutti gli strazi che vengono fatti all'estero sia sugli spaghetti che su tutti gli altri tipi di pasta, mettendoci sopra delle fette di carne ignobili, mentre la lasagna rappresenta tutto quello che è nella tradizione italiana, pertanto chapeau ai risotti giallo e nero di Gualtiero con la foglia d'oro, e chapeau agli spaghetti e al pomodoro, però secondo me la lasagna potrebbe essere altra una bella immagine. Altro voto per la lasagna. Sentiamo Antonio dalla provincia di Milano. Buongiorno Antonio. Buongiorno, vorrei esprimere il mio pensiero dicendo che diciamo che il risotto è quello secondo me che rappresenta l'Italia nel mondo, e non solo il risotto alla milanese, ma il risotto con la zucca di Quistello, un grande risotto al Barolo. Poi è discutibile se uno usa il soffritto o non usa il soffritto, usa l'olio, usa il burro, quello è da discutere, però diciamo che nella mia piccola esperienza per aver girato, il risotto è sempre stato copiato anche nei grandi ristoranti americani, australiani, e quello glielo posso garantire perché ho girato abbastanza. Come si mangia il risotto in Italia non si mangia in nessuna parte del mondo. Bene, grazie. Gualtiero. E i ravioli? Ecco, altro lancio, benissimo. E i ravioli, no, veramente. La prima volta che andai in Francia andai da Michel Gerard e facevi i ravioli uno per uno. Allora mi inizi a fargli vedere come si faceva a fare la striscia, perché altrimenti non ne veniva fuori più, insomma ci voleva un'ora per fare 10 ravioli. Quindi anche i ravioli in effetti sono stati... I ravioli sono importantissimi. In effetti dalla Sicilia fino al Piemonte, se uno fa una strada del raviolo, vede che cambia il ripieno, però rimangono. Bene, io ti ringrazio Gualtiero e complimenti per il premio ricevuto a Madrid, riconoscimento di una grande carriera. Gennaro! Sì. Hai sentito un po' qua e là? Sì, come no, ho sentito, ma in realtà io dico che rappresentare l'Italia in un solo piatto è veramente, come dicevo prima, riduttivo. Io penso che c'è uno straordinario gioco di forme della cucina italiana, che io amo in maniera simpatica interpretare e rielaborare in un altro modo. Pensa ai tortelli, ai tortellini, alle lasagne, interpretate in 10.000 modi diversi, per cui penso che il grande patrimonio italiano sia sicuramente quello del grande rigore dei prodotti insieme alla grande fantasia che contraddistingue questo popolo e contraddistingue questo popolo ancora. Secondo me in questo momento, ripeto, in Italia c'è uno scenario di giovani cuochi, di nuovi interpreti della cucina che ripartono da queste forme, da questi sapori e rilanciano la cucina italiana in uno scenario moderno e soprattutto interessantissimo. Io non vorrei ridurre il discorso allo spaghetto al pomodoro, però lo spaghetto al pomodoro rinnovo il mio voto. Sì, perché è trasversale, capisci? Non c'è una persona che non mangerebbe uno spaghetto al pomodoro, mentre magari i risotti, quelli al Barolo che diceva il signore prima, un po' più complessi, un po' più complicati, possono trovare meno appeal. Certo, è vero. Lo spaghetto è sicuramente il piatto trasversale della cucina italiana, poi da lì in poi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Grazie Gennaro, a presto. Sentiamo Antonio da Modena. Buongiorno Antonio. Buongiorno a lei. Dica. Senta, io sono un panificatore qua di Modena, no? Sì. E servo tutta la zona, cioè arrivo fino a Maranello praticamente, e giro vari ristoranti dove servono. Parlando con i ristoratori, loro mi dicono, tutta la gente che viene da fuori, dall'estero, che vengono qua a Maranello per la farina e tutto il resto, no? chiedono le tagliatelle. Con ragù. La maggior parte chiedono le tagliatelle. È un piatto nazionale, diciamo così, perché la trovo dappertutto la tagliatella, vero o no? Bene, hai ragione. Ho avuto moltissimi voti anche degli SMS. Grazie Antonio. Sentiamo Roberto dalla provincia di Modena, un altro dalla provincia di Modena. Buongiorno Roberto. Buongiorno, io sono dell'Appennino modenese, a sì. Monchio, è un paesino molto bello. Comunque a me piace moltissimo la trippa e la porchetta, la trippa e la porchetta. Sono piatti secondo me stupendi. Bene, grazie anche a Roberto della provincia di Modena. Il gastronauta. Eccoci di nuovo cari gastronauti, ma devo dire che sono veramente molto contento nel vedere così che c'è questa passione per la cucina italiana. Sembra che si parli di calcio, perché qui ognuno esprime il proprio giudizio, il proprio pensiero, diciamo la propria simpatia, ma con molto calore e molto passione. Sentiamo Marco da Roma. Buongiorno Marco. Ah, buongiorno a lei. Io volevo proporre qualcosa che forse non è proprio esattamente l'oggetto della puntata, ma qualcosa di simile. Quindi non tanto quello, il piatto più rappresentativo, ma piuttosto il piatto più buono. Mio nonno mi raccontava che nel suo paese venne indetta una gara, ecco, appunto, si doveva stabilire quale fosse il piatto più buono. Uscì un signore e disse pane e olio. Vinse. Nessuno ebbe il coraggio di proporre un piatto diverso. In effetti, pane, olio e sale. Bene. Difficilmente. Anch'io lo voterei. Marco, anch'io lo voterei. Con un olio straordinario, un pane straordinario. Il problema è che olio straordinario si trova sempre di più in questo paese, il pane sempre di meno, però ci sono ancora dei pani straordinari. Ad esempio in una frazione sperduta della Toscana che si chiama Vinca si trova un pane davvero straordinario, eccezionale. Se si trova il pane eccellente, olio eccellente, è un piatto sicuramente davvero da leccarsi i baffi. Ma io avevo promesso che avrei intervistato anche qualcuno sui trucchi per ottenere un grande risotto, indipendentemente dallo zafferano o da altri, così, da altri condimenti. Allora, abbiamo con noi Pierino Penati, che ha un ristorante famosissimo in Brianza, a Vigano di Brianza. Quindi lui, diciamo che serve sempre, ha sempre nel menù un risotto. Allora gli voglio chiedere, Pierino, ma qual è il segreto di un risotto? Qual è? C'è un segreto per tutti i risotti? È il riso? È il manico? È la tempistica? C'è qualcosa in più che si può apportare a un risotto? Ma guardi, innanzitutto buongiorno. Indubbiamente c'è i segreti, ma che sono poi i segreti? Sono, posso dire, delle esecuzioni che vanno rispettate, perché il risotto bisogna cominciare ad avere un brodo eccezionale, perché altrimenti il risotto alla fine non ha il gusto desiderato. La pentola, che deve essere di un materiale appropriato e di forma appropriata, e alla fine l'esperienza nel farlo, che questa è la parte, diciamo così, che bisogna allenarsi giorno per giorno per ottenere il risotto ideale, che esso sia con lo zafferano, che sia la parmigiana, con le verdure o col pesce. Ci sono questi vincoli che vanno rispettati. Quanto influisce la varietà del riso? Vialone, Carnaroli, Maldo? Influisce tanto, perché il riso, cuocendo in un liquido, se il riso per esempio ha dei problemi anche di struttura, o lascia troppo amido, o si sfalda il chicco, o addirittura non lascia l'amido perché ha avuto un trattamento per dire precotto, e indubbiamente il risotto sarà sempre, tra virgolette, un povero risotto, insomma, ecco. Bene, grazie a Pierino Penati. Ora abbiamo un altro chef bravissimo sul risotto, ma anche su altre cose, anche Pierino Penati, per carità, però dicevo che sul risotto c'è una mano particolare. Crippa, Enrico Crippa del Duomo di Alba. Ebbene, Crippa è un allievo di Gualtiero Marchesi e credo che sicuramente abbia così imparato l'arte in maniera straordinaria, appunto, di fare i risotti. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno. Tu hai dei segreti sulla preparazione del risotto? Ma sicuramente quello che ha detto il signor Penati sul contenitore, ecco appunto la pentola, la tostatura che è importante. Noi, seguendo la scuola di Marchesi, su determinati risotti non li bagniamo con il brodo ma uniamo l'acqua, andiamo alla ricerca di un buon riso per esaltare il sapore del chicco bagnandolo con l'acqua. Poi una cosa molto importante è anche il tocco nell'acidità finale. Il risotto viene mantecato con il burro e il parmigiano, perciò aumenta un po' la sua untuosità e il suo grasso. Per dare una nota allegra nel riso, un cucchiaino di aceto, oppure mantecarlo anche con un burro acido, il cosiddetto beurre blanc alla francese, questo dà una sferzata di acidità e il risotto, forchettata dopo forchettata, passa meglio in bocca, è più stuzzicante. Senti Enrico, non so se ti metto in difficoltà, ma sul risotto alla milanese, vialone nano o Carnaroli? Io personalmente sempre il Carnaroli. Bene, perché c'è una grossa diatriba su questo, tra l'altro c'è un pezzo strepitoso di Carlo Emilio Gatta, il grande scrittore che sulle meraviglie d'Italia riporta un pezzo in cui così parla del risotto, ma in maniera veramente straordinaria, lo definisce la preparazione e sceglie il vialone nano, parla del vialone nano. Bene Enrico, io ti ringrazio, grazie e buon lavoro. Allora sentiamo un altro radioascoltatore, Pietro da Milano, buongiorno Pietro. Buongiorno a lei e a tutti gli altri radioascoltatori e i suoi ospiti. Visto che tutti propongono i loro piatti, io modestamente proporrei un piatto molto povero che veniva usato dai pescatori, ma riguarda un po' la cucina mediterranea, però penso anche tutta italiana per intero: riso, cozze e patate, la tiella alla tarantina, c'è anche il pomodoro. Io personalmente ho dei bellissimi ricordi a livello gustativo di questo piatto, però penso che comunque racchiuda l'italianità. Va bene. Esattamente. Grazie a Pietro da Milano, un altro apporto. Bene, ora abbiamo con noi un altro giornalista che in questi anni, diciamo, ha battuto le osterie, le trattorie. Buongiorno Carlo Cambi. Ciao Davide, buongiorno a chi ci ascolta. Ecco, tu avendo battuto il marciapiede delle trattorie e delle osterie, se ti dovessi chiedere qual è secondo te il piatto che rappresenta la cucina italiana, c'è una risposta unica o tante risposte? No, beh, le risposte sono tante, come sai la cucina italiana non esiste di fatto, però c'è un piatto che si trova sempre di meno secondo me e che invece è la quintessenza dell'opulenza della cucina italiana, perché poi ne parliamo sempre come cucina povera, che è il gran fritto all'italiana. Beh, ho ricevuto 2-3 sms che hanno votato per questo, e infatti c'è qualcuno che lo... Il gran fritto all'italiana era veramente il trionfo dei giorni di grasso, di quando si poteva fare la festa. Poi certo, citare il risotto è ovvio, parlare delle paste ripiene, che sono un'altra prerogativa assolutamente italiana, tutta la teoria dei tortelli, dei tortellini, dei cannelloni, di agnolotti, come li vuoi chiamare, è un altro connotato della nostra cucina. E poi c'è un altro piatto, secondo me poverissimo, che però racchiude, seguivo l'ascoltatore di prima, l'italianità, che è la panzanella. Quindi la panzanella e diciamo il fritto che poi c'è il fritto alla piemontese, c'è il fritto alla bolognese, quindi... Sì, però la fritta all'italiana è sostanzialmente poi la fusione di tutti questi grandi fritti che prevedono verdure, che prevedono parti di carne spesso e volentieri non nobilissime, pensa al cervello, alle anelle, certo. E poi il contrasto dolce-salato con la crema fritta, che è indispensabile per fare un vero grande fritto all'italiana. Sul risotto ti volevo dire una cosa, la mia bisnonna, che era una grande cucinatrice di famiglia, mi diceva che il segreto del risotto è questo: che il riso nasce annegato e deve morire assetato, cioè andare molto piano con l'aggiunta del brodo e lavorarlo sempre, continuamente col mestolo per evitare che si attacchi, ma per farlo gonfiare. Bene, questo è diciamo un detto importante. Grazie a Carlo Cambi. Davide, un abbraccione. A presto. Presto, ciao. Allora, continuiamo a sentire, molti radioascoltatori continuano a chiamare. Mario dalla provincia di Monza, buongiorno Mario. Buongiorno, senta, io sono d'accordissimo con i risotti come piacciono, però non vorrei dimenticare nemmeno la polenta, un bel piatto di polenta E anche con la cassola. Bene, anche questo è sicuramente un piatto molto, ma molto diffuso. Grazie Mario, e a presto anche a lei. Sentiamo Giulio da Roma. Buongiorno Giulio. Buongiorno. Dico, il mio piatto è molto semplice. Lo faceva mia madre, che è originaria del napoletano. Una sorta di puttanesca in bianco, dove gli ingredienti essenziali sono quelli contadini, quindi sono le olive, i capperi, il prezzemolo, e una spunta d'aglio dentro, e alla fine aggiungeva il tonno, mescolava con gli spaghetti, e alla fine faceva un mollicato sulla superficie degli spaghetti e lo infornava. Una favola, il profumo dell'italianità. Bene, la mamma di Giulio, allora, si fa venire l'acquolina in bocca. C'è un SMS che mi dice: il piatto preferito dalla regina madre inglese era la pasta e fagioli, lo voto pure io. Manu, da Trento, mi sembra di capire. Bene, grazie anche a questo voto. Devo dire che ho ricevuto moltissimi SMS che mi parlano di non si parla mai di pizza, non si difende mai le pizze. Bene, allora, la prossima trasmissione, cari radioascoltatori, la faremo sulla pizza su vostro invito. Dice che bisogna difendere assolutamente la pizza. Io sono d'accordo, è molto difficile difenderla all'estero, ma cerchiamo di difenderla all'interno. Quindi la prossima settimana sicuramente parleremo di pizza. Bene, abbiamo fatto un bellissimo giro dell'Italia gastronomica, abbiamo visto quanti diversi voti ci sono, insomma un po' come il campionato di calcio, e questo è veramente molto bello, che rappresenta anche la varietà della cucina italiana. Se fossimo stati in un altro paese, forse se la sarebbero giocata uno o due piatti e basta, quindi credo che questo sia il grande nostro valore. Io vi saluto Peter e Gigi che hanno contribuito a questa trasmissione, vi do appuntamento tutti i giorni alle 18:30 con la pillola. A presto dal vostro Davide Paolini.